tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sul caso Regeni, forse in arrivo una svolta dall'Egitto. Una fonte anonima rivela al quotidiano La Repubblica, dietro il sequestro potrebbe esserci un generale dei servizi, Khaled Shalabi. L'agenzia europea Frontex rilancia l'allarme, c'è il rischio di terroristi tra i migranti, mentre la Commissione europea discute della revisione del regolamento di Dublino sul diritto d'asilo. La sanità, i dati del governo forniti dal sottosegretario Faraone poco fa, 2 milioni di italiani hanno pagato bustarelle, 10 milioni hanno fatto visite specialistiche in nero, Cantone dice nel settore scorribande di delinquenti. Domani il ministro Guidi dai magistrati di Potenza, mentre si allarga il filone di indagine che riguarda l'inquinamento ambientale, si studiano le cartelle cliniche sui tumori, parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno con il responsabile del registro dei tumori della Basilicata. Dopo il caso Apple FBI arriva la svolta di WhatsApp col suo miliardo di utenti, tutti i messaggi e le telefonate saranno crittografati. Devastata la macchina del sindaco di Livorno, Nogarin. Nei giorni scorsi gli erano state tagliate le ruote e c'era stato un tentativo di accesso in casa. Ieri, tra l'altro, la finanza era in comune per la vicenda dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il caso di un comune del Bresciano. Negata ad un'associazione la festa di 4 giorni per la raccolta fondi per i bambini del Brasile. Ce ne sono troppe di queste feste, spiega il primo cittadino. I ristoratori protestano. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, abbiamo anche il canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque, anche oggi torniamo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano di 28 anni torturato e ucciso in Egitto. Le notizie di oggi raccontano che il Cairo si preparerebbe ad offrire all'Italia un primo responsabile. Sentiamo. Potrebbe essere quella del generale Khaled Shalabi la prima testa a cadere in Egitto per l'omicidio di Giulio Regeni? Secondo quanto rivelato da fonti del Cairo al quotidiano La Stampa, dopo le pressioni da parte del governo italiano, il presidente egiziano Al-Sisi sarebbe pronto a sacrificare l'alto ufficiale, già condannato nel 2003 per aver torturato ed ucciso un uomo ma poi reintegrato dopo la sospensione della sentenza. Capo della polizia criminale e del dipartimento investigativo di Giza, era stato proprio Shalabi, dopo il ritrovamento del corpo di Regeni, a cercare di accreditare la tesi dell'incidente stradale e poi quella del delitto a sfondo omosessuale. L'indiscrezione arriva proprio nel giorno in cui è attesa a Roma la delegazione egiziana che domani incontrerà gli inquirenti italiani. Il nome di Shalabi figura anche in alcune email inviate al quotidiano Repubblica da un informatore anonimo, secondo il quale il ricercatore fu arrestato e torturato per ottenere informazioni sui sindacati autonomi che erano oggetto dei suoi studi. La gola profonda avrebbe anche fornito dettagli finora mai resi pubblici sulle torture inflitte a Regeni, ma gli inquirenti italiani fanno sapere che le sue email non potranno avere rilevanza penale perché arrivate da una fonte anonima. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, ma sempre con vicende correlate all'Italia, in particolare al tema dell'immigrazione. Due fronti importanti oggi. Da una parte arriva sul tavolo della Commissione europea la proposta di revisione del Trattato di Dublino. È quello che prevede, lo ricorderete, che un richiedente asilo debba rimanere nel paese europeo nel quale è arrivato per la prima volta. Tutto questo mentre Frontex diffonde nuove informazioni sull'ipotesi che ci siano dei terroristi tra chi arriva nel nostro continente. L'altro fronte invece riguarda il luogo tradizionale di partenza dei migranti, la Libia, dove sembra che ci sia una schiarita per il governo sostenuto dall'ONU. Iniziamo però dal fronte europeo. Possibili terroristi tra i migranti irregolari che arrivano in Europa. A rilanciare l'allarme sul rischio di infiltrazioni è Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne della UE. Nel suo rapporto 2016 segnala anche un record di passaggi illegali nel 2015 con 1.800.000 attraversamenti irregolari della frontiera esterna. Tutto questo nel giorno in cui la Commissione europea presenta la riforma dell'attuale sistema di Dublino. Nessuna proposta legislativa formale, solo una comunicazione per avviare un dibattito. Tuttavia è pur sempre qualcosa, visto che il sistema, dopo quasi 20 anni, si rivela del tutto inadeguato. Superarlo è dunque necessario per la Commissione, e ciò vuol dire superare il meccanismo in base al quale la responsabilità della vasta maggioranza dei richiedenti asilo viene scaricata su un numero limitato di paesi. Due le opzioni: da una parte una vera e propria riforma radicale del regolamento, che verrebbe sostituito con un meccanismo di ripartizione automatico gestito da un'agenzia comunitaria dell'asilo, un'opzione che piace a Roma, a Berlino, ma non ai paesi dell'est. l'altra, più debole, prevede il mantenimento del sistema attuale con l'aggiunta di un correttivo di ripartizione che scatterebbe in caso di emergenza. Saranno i governi a scegliere quale opzione seguire e di qui all'estate, quando arriverà la proposta legislativa vera e propria, si preannuncia battaglia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E come si diceva, in Libia pare allentarsi la tensione. Ieri l'annuncio con il quale Khalifa al-Ghevel, leader del governo non riconosciuto di Tripoli, ha lasciato il potere, cedendolo al governo di unità nazionale di Sarraj. Subito dopo, una settantina di deputati del Congresso hanno dichiarato il proprio appoggio al governo del premier designato dalla comunità internazionale e lo scioglimento dell'organismo. Muove così i primi passi l'esecutivo di Sarraj. Tutte le istituzioni locali dovranno utilizzare il simbolo del governo di unità nazionale e dovranno richiedere il via libera dell'esecutivo per le spese. Anche la Banca Centrale di Tripoli, che fino a ieri alimentava i conti delle due autorità libiche rivali, ha manifestato il proprio sostegno al nuovo governo, che per rafforzarsi ha ordinato di congelare tutti i conti appartenenti a ministeri e istituzioni pubbliche di Tripoli o Tobruk. Restano comunque gli avversari sul campo. Ansar al-Sharia, il gruppo jihadista attivo nell'est del paese, ha definito il premier designato il nuovo Karzai della Libia e ha rivendicato due attacchi avvenuti a Bengasi contro le forze filogovernative. Valeria De Rosa, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Ci occupiamo di sanità adesso, con i dati diffusi oggi dal governo e le parole dure di Raffaele Cantone, capo dell'anticorruzione. Sentiamo. La sanità, per l'enorme giro di affari che ha intorno, è il terreno di scorribanda da parte di delinquenti di ogni risma. Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, intervenendo alla presentazione del rapporto di Transparency International Italia, Censis e ISPE Sanità, in occasione della prima giornata nazionale contro la corruzione proprio in sanità. Un fenomeno che sottrae fino a 6 miliardi l'anno all'innovazione e alle cure ai pazienti. In un'azienda sanitaria su tre si sono verificati episodi di corruzione negli ultimi 5 anni che non sono stati affrontati in maniera appropriata. A rivelarlo i dirigenti delle 151 strutture sanitarie che hanno partecipato all'indagine. Secondo i dati del governo, sprechi, inefficienze e corruzione presenti nella sanità ci costano complessivamente 23,6 miliardi di euro l'anno. Inoltre, ben 2 milioni di italiani hanno pagato bustarelle per ricevere favori in ambito sanitario, mentre 10 milioni hanno effettuato visite mediche specialistiche in nero. Lo ha affermato il sottosegretario all'istruzione, università e ricerca Davide Farà. Tra gli snodi problematici, liste di attesa, imprese farmaceutiche e la gestione delle sale mortuarie. Nel frattempo, Raffaele Cantone ha annunciato: stiamo per firmare un nuovo protocollo con il Ministero della Salute e andremo a controllare come i piani anticorruzione vengono applicati. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque, questo il quadro dal fronte della sanità. Siamo adesso all'inchiesta sull'impianto petrolifero di Tempa Rossa che ha portato alle dimissioni della ministra alle attività produttive Federica Guidi. Facciamo un punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Tra riscontri e scontri politici e indagini, la questione Tempa Rossa va avanti. Il ministro della giustizia Andrea Orlando precisa: non c'è nessuna volontà di delegittimare la magistratura. Gran parte delle inchieste che si stanno svolgendo in questi giorni sono frutto di leggi che il Parlamento ha fatto, introducendo la sindacabilità di condotte prima immuni. La risposta, prosegue Orlando, è nei fatti. E i fatti sono quelli di riconoscere alla magistratura poteri di indagine che in passato non c'erano. Questa dunque la risposta del guardasigilli in merito a quanto chiesto dal premier Matteo Renzi su processi veloci e sentenze certe. Ma intanto sul fronte dell'inchiesta sul petrolio di Potenza oggi sarà sentita l'ex sindaco di Corleto Perticara Rosario Vicino e domani l'ex ministro Federica Guidi. Precisazione poi da parte del procuratore capo di Potenza Luigi Gai: l'attività petrolifera svolta da Eni ad oggi non è scritta l'ipotesi di disastro ambientale e ha detto che è stata doverosa la puntualizzazione. Il riferimento è al filone dell'inchiesta riguardo allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel centro Oli di Viggiano in provincia di Potenza dall'Eni. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e proprio su questo filone d'inchiesta torneremo più avanti nel corso della trasmissione, sarà uno dei nostri fronti di approfondimento. Come vi abbiamo raccontato nella trasmissione di ieri, i carabinieri del NOE stanno acquisendo le cartelle cliniche per capire se ci sia una qualche correlazione tra l'inquinamento ambientale e la mortalità per tumore. Ne parleremo più avanti col responsabile del registro tumori della regione Basilicata. Tra l'altro non sono molte le regioni che hanno un registro dei tumori, la Basilicata è una di queste, e vedremo di capire se ci sono se c'è qualcosa dal punto di vista dei numeri che ci può aiutare a capire qualcosa di più. Siamo all'altra vicenda di queste ore, quella dei Panama Papers, i documenti sottratti ad uno studio legale e fiscale del paese centroamericano, scandalo che tocca anche il neo presidente della FIFA. Si rafforza il pressing su Panama dopo la pubblicazione dei Panama Papers. La Francia ha chiesto all'OCSE di inserire il paese nella lista nera dei paradisi fiscali e nel frattempo lo scandalo dei file trafugati alla Mossack Fonseca, che ha annunciato un'azione legale contro la fuga di notizie, ha fatto la sua prima vittima eccellente, il primo ministro islandese, che ha rassegnato le dimissioni. In Francia la bufera coinvolge la cerchia del leader del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, e anche Dominique Strauss-Kahn, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale. Nell'elenco dei possessori di società offshore figura anche il neo presidente della FIFA, Gianni Infantino, ma il mondo del calcio è coinvolto anche con Messi, Seedorf e con il fratello del presidente dell'Inter, Garibaldi Toir. Angelo Mincuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dai grandi flussi di denaro verso Panama passiamo a flussi decisamente più modesti, almeno per quel che riguarda le questioni singole, le singole pensioni, ed è questa nuova promessa o annuncio del Presidente del Consiglio, 80 euro in più, questa volta anche per i pensionati. Facciamo un punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. E sulle pensioni, Simone, tre i temi in primo piano: aiuti agli assegni minimi, flessibilità in uscita e contributo di solidarietà. Ieri alcune anticipazioni del Presidente del Consiglio Renzi. Partiamo allora dall'estensione degli 80 euro a quelle minime. C'è allo studio, ha detto il Premier, l'ipotesi di allargarli anche a chi prende meno di 1.500 euro o a chi serve con uniforme il nostro paese, come avviene già ora. Ipotesi oggi confermata a Radio 24 dal Ministro del Lavoro Poletti, ma purché, spiega, sia compatibile con la sostenibilità dei conti. Sentiamo allora Poletti. Questo è un tema che è presente da quando si decise il bonus degli 80 euro ai lavoratori 2 anni fa. Naturalmente questo è un tema che va affrontato all'interno della legge di stabilità, perché abbiamo una ovvia esigenza di compatibilità rispetto all'utilizzo delle risorse. Io sono naturalmente favorevole al fatto che anche le pensioni più basse abbiano un loro adeguamento, lo dovremo vedere dentro questo contesto generale di equilibrio della nostra economia e del nostro bilancio. Quanto al capitolo occupazione, da Poletti la conferma che il governo andrà avanti anche in futuro con gli sgravi per incrementare i contratti a tempo indeterminato. Ma sugli 80 euro le reazioni sono tante. Simone Camusso, CGIL, dice: lo mettiamo nel capitolo annunci o nel capitolo siamo in difficoltà? Il bonus deve essere per tutti e strutturale, aggiunge Barbagallo Will. Opposizioni critiche di Mancia, parla il Movimento 5 Stelle, di arma di distrazione di massa Brunetta, Forza Italia, e voce contraria poco fa anche dalla stessa maggioranza, con il vice ministro Zanetti che dice: non abbiamo bisogno di populismo del governo. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. A proposito di politica, c'è una notizia di questa mattina, la vicenda la ricorderete, era quella che riguardava Maurizio Gasparri, attuale vicepresidente del Senato, che era stato accusato di essersi appropriato illecitamente di 600.000 euro destinati all'allora gruppo del Popolo della Libertà. Ebbene, Gasparri è stato assolto dall'accusa di peculato dal Tribunale di Roma. Secondo l'accusa, Gasparri avrebbe utilizzato il denaro per una polizza vita a lui intestato, ma appunto è stato assolto. Si apre questa mattina il Salone del Risparmio. Il ministro dell'Economia Padoan interviene all'indomani di un vertice dedicato al sistema bancario. Nel giorno in cui il governo pone la fiducia sul decreto banche, il ministro Padoan, dal Salone del Risparmio di Milano, ribadisce la bontà delle riforme fatte finora, dalle popolari alle fondazioni, alle BCC, al bail-in. Si tratta, in altri termini, di misure che tendono sia a rafforzare il sistema del credito, sia a lasciare alle spalle l'eredità molto dolorosa di 3 anni di recessione profonda, a cui il sistema del credito ha peraltro resistito assai bene. Sul sistema di garanzia pubblica per il recupero delle sofferenze, approvato a febbraio, dal mercato arrivano segnali incoraggianti, spiega Padoan. Nessun cenno alla creazione di un maxifondo per i crediti deteriorati, ma il ministro ribadisce: rafforzare le banche è importante per incrementare gli investimenti alle imprese e alimentare la crescita. La ripresa resta infatti sotto le aspettative. Occorrono misure strutturali, dice il ministro, che annuncia le misure contenute nel pacchetto per la crescita produrranno un incremento aggiuntivo dello 0,2% del PIL rispetto allo scenario base e fino all'1% in più sul lungo periodo, stime che saranno contenute nel DEF. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di finanza e di economia, notizia di pochi istanti fa, Pfizer e Allergan, i due colossi del settore della medicina, ufficializzano la fine dell'operazione di fusione da 160 miliardi di dollari. Era atteso, in una nota le due aziende spiegano che la decisione è stata presa dopo la decisione del Tesoro americano di imporre una stretta sulle cosiddette tax inversion. Che cosa sono? È il trasferimento all'estero di aziende tramite fusioni e acquisizioni per sfuggire al fisco americano. Il matrimonio tra queste due aziende era organizzato secondo questo schema, esattamente secondo questo schema. La svolta di WhatsApp cripterà messaggi e telefonate. Più sicuri. Blindate da oggi le comunicazioni su WhatsApp. I dati scambiati siamo certi che saranno visionati solo dal destinatario o dai componenti di un dato gruppo. Merito dell'utilizzo della crittografia end-to-end che impedisce di introdursi nella chat. Qualora ciò avvenisse, non possedendo la chiave di lettura, chi lo fa ottiene solo una serie di codici incomprensibili. WhatsApp come Telegram in estrema sintesi, la app concorrente che sino ad oggi aveva sempre fatto proprio della sicurezza il suo punto di forza. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook del fondatore di WhatsApp, seguito da un articolo ufficiale sul blog della piattaforma di proprietà di Facebook. Utenti avvertiti da un messaggio sulla app, esperti che ci tengono comunque a chiarire un concetto. Siamo più sicuri nelle comunicazioni, sì, ma non dobbiamo dimenticare che lo stesso dispositivo mobile non è di per sé protetto o privo di falle. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rocco Galasso, buongiorno. Buongiorno. Il responsabile del registro tumori della regione Basilicata. Come si diceva poco fa, c'è il filone dell'indagine della Procura di Potenza che riguarda l'inquinamento ambientale e che ha portato ieri i carabinieri del NOE a sequestrare una serie di cartelle cliniche. Parleremo di questo con Rocco Galasso per avere un po' di chiarezza sui numeri. E poi, dopo di lui, parleremo anche con un sindaco, una storia piccola che arriva da Brescia, il sindaco di Travagliato, che ha impedito ad un'associazione di tenere la sua festa per la raccolta fondi. Perché? Perché i ristoratori protestano. Tutto questo dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, il caso Regeni, forse ne arriva una svolta dall'Egitto, una fonte anonima ha rivelato al quotidiano La Repubblica, dietro il sequestro potrebbe esserci un generale dei servizi Khaled Shalabi. L'agenzia europea Frontex ha rilanciato l'allarme, c'è il rischio terroristi tra i migranti, mentre la Commissione europea discute della revisione del regolamento sul diritto d'asilo. La sanità, arrivano i dati del governo, 2 milioni di italiani hanno pagato bustarelle e 10 milioni hanno fatto visite specialistiche in nero. Cantone dice, il presidente dell'anticorruzione, nel settore scorri bande di delinquenti. Dopo il caso Apple FBI arriva la svolta di WhatsApp col suo miliardo di utenti, tutti i messaggi e le telefonate saranno crittografati. E dunque con Rocco Galasso, responsabile del registro tumori della regione Basilicata, il che tra l'altro ci dà anche l'occasione per dire che tra le poche regioni la regione Basilicata ad averlo istituito non è così frequente, ci sono molte regioni che sono indietro e questo naturalmente è molto grave, questo ci dà l'occasione per ricordarlo, però appunto la Basilicata ce l'ha. Allora, dato che una parte delle indagini della Procura di Potenza nel filone che riguarda più strettamente l'inquinamento ambientale, che è un filone diverso da quello che ha portato alle dimissioni del ministro alle attività produttive Federica Guidi a causa appunto di quell'emendamento che di fatto sbloccava i lavori di Tempa Rossa, si diceva è un filone diverso ma altrettanto importante proprio perché riguarda l'inquinamento ambientale, anche se non così importante forse dal punto di vista politico. Quello che vogliamo fare adesso è fare un punto sui dati, almeno quelli che abbiamo, e capire a che cosa dobbiamo effettivamente guardare. Allora Galasso, io inizierei dai dati che abbiamo adesso e poi parleremo anche di quello a cui dovremo guardare più avanti, evidentemente, perché insomma i tumori non è che nascono e si registrano dall'oggi al domani, però partiamo dai dati attuali, prego. Sì, allora il registro tumori di Basilicata registra che cosa? Tutti i tumori maligni su base di popolazione regionale, che significa su per i residenti dell'intera regione Basilicata. I dati prodotti vanno dal 2005, anno di prima pubblicazione, fino all'anno 2012. per cui c'è un discreto periodo. Il 2012 è l'ultimo anno disponibile perché il registro non produce i dati che mette insieme i dati che gli danno altri enti, altre aziende, non fa di per sé diagnosi. Punto importante. Mi dice solo una cosa, Galasso, intanto. Sì. Che è successo dal 2012? Perché non ci sono più dati? Siamo fermi al 2012, ma non vuol dire siamo fermi, perché il registro consulta delle fonti che sono codificate a livello internazionale, oltre che nazionale. Mm. Deve utilizzare le schede di dimissione ospedaliera, gli archivi di anatomia patologica, gli archivi di mortalità, chiede le cartelle cliniche, cioè utilizza degli archivi che sono a disposizione di altri. Quindi è abbastanza è abbastanza normale che non siano così aggiornati i dati, esatto, come dire. È assolutamente normale. No, questo era un punto importante da chiarire. Devo aspettare che si chiuda, siamo nel 2016, la disponibilità dell'intero database delle schede di dimissione ospedaliera regionale è alla fine dell'anno e poi occorre fare tutti i controlli che vengono fatti in misura amministrativa dalle regioni, che significa che io li ho l'anno successivo ancora. Allora, è normale che sia così. Questo è il punto dal punto di vista amministrativo, per così dire. Dal punto di vista, ripeto, dei numeri e quindi dell'incidenza dei tumori in Basilicata e in particolare nella Val d'Agri, la zona di estrazione del petrolio, che cosa ci dicono questi dati? Sì, il registro fa una cosa importante, conta, perché alla fine significa registrare, significa contare i nuovi casi di tumore che si verificano anno per anno e riesce a dargli una distribuzione geografica, nel senso che ogni caso ha un nome, un cognome, una residenza, d'accordo, per cui riusciamo a dire la Val d'Agri piuttosto che altre aree della regione, o riusciamo a dire i tumori nelle donne rispetto ai tumori nei maschi. Sì. Bisogna fare un'ulteriore piccola premessa che è importante, cioè il cancro non è una malattia, noi parliamo di tumori, che significa sintetizzare. Il cancro è tantissime malattie, nel senso che più di qualcuno dice che sono 100 malattie diverse, ma dipende dalle varie sedi tumorali e da quello che è l'istotipo istologico, cioè quello che è l'istologia della malattia stessa. E ce ne sono alcune più correlate all'inquinamento ambientale e altre meno, e questo è un altro punto fondamentale, una premessa corretta. Importante. Adesso però veniamo ai numeri e all'incidenza. Che cosa vediamo? Perché dal 2005 al 2012 vediamo qualche cosa. Il modo per sintetizzare è guardare tutti i tumori nel loro insieme, il che significa che piuttosto che vedere sede per sede ci possono essere delle differenze rispetto a quello che sto dicendo, però è tutti i tumori, un quadro generale, insomma, il modo più semplice, un quadro generale. Sì. Che cosa avviene? Confronto fra Basilicata e resto dell'Italia, confronto all'interno della Basilicata per le diverse aree. Perfetto. Iniziamo da Basilicata Italia. Tutte queste premesse metodologiche. Andiamo sui numeri, per favore. Perfetto. Che cosa succede? Tassi di incidenza. Ci sono delle tabelle pubblicate sul sito, per cui sto guardando le tabelle che ho messo di sintesi l'altro ieri, proprio perché quello che viene prodotto normalmente è estremamente complicato, ci sono tutte le 500 tabelle che vengono prodotte e la sintesi è questa. Okay. Allora, che cosa succede? Tasso di incidenza basilicati maschi dal 2005 al 2008-2009 ha un incremento, nel senso passiamo da 413 per 100.000 abitanti, sono tassi standardizzati. Sì. E questa è una piccola, faccio un'ultima premessa, la standardizzazione serve a fare il confronto. Certo. Esistono differenze nella struttura di popolazione, quindi dobbiamo fare il confronto solo in questo modo. Quindi però andiamo sui numeri, 2009, per favore. Andiamo 413 sui numeri. Casi per 100.000 abitanti a 463 casi per 100.000 abitanti fino al 2009 e poi inizia lentamente a decrescere, nel senso da 463 del 2009 siamo a 402 per 100.000 abitanti nel 2012, quindi ha avuto questo andamento in crescita fino al 2009 e poi è sceso. Queste cifre sono in linea con quelle italiane oppure queste no? Queste cifre hanno lo stesso andamento in decrescita rispetto al resto dell'Italia e sono inferiori alla media nazionale, sono esattamente in linea con quelle che sono le altre regioni centro-meridionali. Ok, quindi siamo in linea con l'Italia e la Val d'Agri e nella fattispecie la Val d'Agri nella fattispecie nella Val d'Agri produciamo dati per le per aree amministrative, aree POIS si chiamano in Basilicata, sì. Però sono raggruppamenti amministrativi, per cui la Val d'Agri è una serie di comuni della Val d'Agri, sì. non hanno lo stesso andamento generale dell'intera Basilicata. Quindi non cambia nemmeno per la Val d'Agri. Non cambia come andamento brevemente dell'intera Basilicata, sono numeri diversi perché ovviamente sono popolazioni differenti e quindi è naturale che per anno ci sono delle differenze, però sono esattamente in linea con quello che è l'andamento generale. Dal punto di vista del trend, insomma, se dovessimo rappresentare con una linea. Ascolti, veramente in 30 secondi se riesce, ma noi siamo in grado di poter dire adesso, con questi dati del 2012, che c'è un'incidenza maggiore o bisogna aspettare di più? Se dobbiamo dire che... Questo è il numero dei casi che vede una storia nata 10 anni fa, 15 anni fa, d'accordo, al 2012. Sì. Se si utilizzano metodi statistici per fare le stime, uno si aspetta esattamente l'aumento che si verifica piccolo nelle donne si porterà avanti nel tempo. Sì. Nei maschi dovrebbe mantenersi questo trend in diminuzione. A meno che non ci siano fatti successivi e che vedremo, però il registro sarà in grado di leggerli fra 10 anni. Fra 10 anni. Quindi ci vorranno 10 anni per vedere se ci sono stati effetti su fatti che, per così dire, avvengono oggi. La ringrazio. Grazie a Rocco Galasso, responsabile del registro tumori della regione Basilicata. Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. 11.000 abitanti circa, siamo, per chi si vuole fare un'idea autostradale di dov'è il luogo, più o meno vicino al casello di Ospitaletto, no? Se non sbaglio, come zona. Che cosa succede? Succede che è assurdo agli onori delle cronache perché ha negato la possibilità ad una... associazione che si occupa di raccogliere denaro per i bambini delle favelas brasiliane di tenere la sua festa di autofinanziamento, per così dire, quindi raccogliere i soldi per darli a questi bambini. In sostanza la base qual è? Ci sono i ristoratori che protestano perché dicono ci sono troppe feste di finanziamento e noi non facciamo più soldi, è così? Ma non esattamente così, non soltanto perlomeno. Nel senso che noi abbiamo tante associazioni di volontariato che svolgono attività di raccolta fondi presso le nostre strutture durante l'anno, soprattutto durante il periodo estivo. Spero che si senta bene perché io ho un ritorno. Perfettamente, noi la sentiamo. Ok, perfetto. Allora, dicevo, ci sono queste iniziative, sono di vario genere e Opzione Lieta, che è l'associazione che svolge questa attività di Brasilieta, questa iniziativa, svolge due iniziative di raccolta fondi sul nostro territorio, una di lunga durata, 43 giorni, sì. E un'altra che dura soltanto 4 giorni, quindi abbiamo soltanto chiesto, oltretutto con largo anticipo, già l'anno scorso a giugno abbiamo incontrato i vertici e abbiamo in modo molto cordiale chiesto di ridurre a una iniziativa piuttosto che due. Perché sai che c'è qualcuno che ha detto, attenzione, il sindaco è leghista, ce l'ha con questi perché portano, come dire, i soldi ai bambini brasiliani, mentre invece consente a tutti gli altri, per esempio l'Avis e così via, a chi, come dire, redistribuisce, per così dire, sul territorio, di fare tutte le feste che vuole. Guardi, se qualcuno vuol farmi dire che preferirei aiutare prima la nostra gente, le dico anche che, glielo confermo, è così, ma non è questa la motivazione della scelta, perché se così fosse avremmo eliminato entrambe le manifestazioni. Invece, come le dicevo, una manifestazione che dura 43 giorni continuerà ad esistere. Grazie Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato, provincia di Brescia. Un'altra piccola storia che abbiamo voluto raccontare, una un po' più grossa la raccontiamo più avanti, perché parleremo con Filippo Nogarin, il sindaco di Livorno. Negli ultimi 6 giorni gli hanno devastato la macchina, gli hanno tagliato le ruote, sono due episodi differenti alla macchina, hanno tentato di entrargli in casa, quindi c'è un filo di preoccupazione. Vogliamo farci raccontare da lui, da Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle, come vanno le cose. Questo dopo la pausa e dopo la borsa, naturalmente. Effetto giorno. Perfetto, giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, a partire dal caso Regeni, che forse vede una svolta arrivare dall'Egitto. Una fonte anonima ha rivelato al quotidiano La Repubblica: dietro il sequestro potrebbe esserci un generale dei servizi. L'agenzia europea Frontex ha rilanciato l'allarme: c'è un rischio terroristi tra i migranti, mentre la Commissione europea discute della revisione del regolamento di Dublino sul diritto d'asilo. La sanità: ci sono i dati diffusi dal governo, dal sottosegretario Faraone. 2 milioni di italiani hanno pagato bustarelle, 10 milioni hanno fatto visite specialistiche in nero, mentre il presidente dell'anticorruzione Cantone parla di scorribanda e di delinquenti nel settore. Domani il ministro Guidi dai magistrati di Potenza. Dopo il caso Apple FBI arriva la svolta di WhatsApp. Col suo miliardo di utenti, tutti i messaggi e le telefonate saranno crittografati. Alla borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto Giorno. Filippo Nogarin, sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, nel giro di 6 giorni le hanno tagliato le ruote della macchina, hanno provato a entrarle in casa e poi l'altra sera hanno proprio sfondato il vetro della macchina, insomma, hanno rubato una serie di cose, tra cui anche un computer con dei documenti. Ci spiega cosa sta succedendo, Nogarin? Ma mi baso solamente sui dati di fatto. Quelli che avete raccontato sono i dati di fatto. In 6 giorni, 3 atti sicuramente violenti, un'escalation, questo è ciò che purtroppo sta accadendo. Può essere un caso, io non voglio fare l'allarmista. Però sicuramente... Ma lei ci crede al fatto che sia un caso? Ma non sta a me crederci oppure no, Il ruolo di chi deve fare queste valutazioni è un altro, non è quello del sindaco. Io semplicemente li ho subiti, sono emotivamente anche parte coinvolta, io, la mia famiglia, quindi non posso fare queste valutazioni, non è corretto che le faccia io. Ma appunto, dicevamo, l'ultimo episodio è stato questo dell'auto, ma hanno anche provato ad entrarle in casa dunque? Sì, hanno provato anche a entrarmi in casa 2 giorni prima, e poi l'ultimo atto, comunque quello che sicuramente anche per come è stato portato a segno è quello più eclatante, insomma la macchina è oggettivamente devastata, non è utilizzabile, è stata dovuta portare in officina con il carro attrezzi. Beh, insomma... Diciamo che sicuramente in questo momento mi sembra un po' scosso, sindaco. Ma no, non è scosso, diciamo che se uno la può leggere come vuole, però la fortuna in questo momento, da questo punto di vista, non è dalla mia, ecco, mettiamola così. Diciamo che in sei giorni il caso ha colpito. Ma lei non è che magari sospetta un qualche collegamento con la vicenda di AMPS, l'azienda dei rifiuti che lei ha portato, ha concordato preventivo, no? No, assolutamente. Come le ho detto, non spetta a me fare queste valutazioni. C'è un questore, c'è un prefetto che si occupano di queste cose e sta a loro fare sintesi. Io quello che so è che in 6 giorni sono stato colpito 3 volte consecutive in un'escalation chiara. Mi pare insomma inequivocabile. Speriamo che non ci sia un quarto evento, ecco, tutto qui. Ovviamente lei di questo ha parlato col prefetto e col questore, suppongo. Il questore è sempre costantemente aggiornato di ogni situazione, lui, i suoi ragazzi, in ogni momento nel quale è accaduto anche la singola cosa, io ho sempre avvisato tenendo aggiornati gli organi competenti. La prefettura è stata da me interpellata ieri per convocare di urgenza un comitato di ordine e sicurezza pubblica, mi pare al di là dell'altro. Quando si svolgerà? Credo giovedì, se non erro, mi è stato concordato. Si ipotizza una scorta o un rafforzamento dei controlli per lei? Non voglio pensare a ipotesi di questo tipo. In ogni caso io sarei abbastanza dell'idea che una scorta non è l'elemento che mi possa garantire sicurezza. Semmai la rifiuterebbe? Sì, semmai la rifiuterebbe. La ringrazio, grazie a Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, e naturalmente in bocca al lupo per il suo lavoro. Prima di chiudere parliamo di adozioni, di adozioni internazionali. È un tema del quale ci stiamo occupando spesso. Tra l'altro c'è un bello speciale realizzato da Valentina Furlanetto che trovate anche sul nostro sito www.radio24.it. arriva a parlare finalmente la presidente della commissione che si occupa di adozioni internazionali dopo un discreto periodo di silenzio. Sentiamo. Da 2 anni la Commissione Adozioni Internazionali non si riunisce né pubblica i dati sul numero di bambini adottati all'estero, tanto che il Permanent Bureau dell'AIA, che sorveglia l'applicazione della Convenzione sulla protezione dei minori, ha richiamato l'Italia per il mancato rispetto delle sue linee guida. La presidente della Commissione, Silvia Della Monica, si è difesa oggi in un'intervista a Repubblica. Ci sono enti che hanno avuto gestioni discutibili, ha detto. Sto cercando di riportare la legalità. Accuse pesanti. Quanti sono e quali sono questi enti? La presidente non lo dice. Paola Crestani, presidente del CIAI. Trovo scandaloso. Il suo dovere è valutare quali sono gli enti seri e prendere dei provvedimenti rispetto ad altri enti, quindi eventualmente radiarli. L'organo che deve verificare la legalità dica che non c'è legalità, ma non dica al contempo quali azioni sta portando avanti per ripristinare questa legalità, è sorprendente. Intanto 43 bambini adottati in Congo possono rientrare in Italia, ne restano lì però 91. Da 3 anni aspettano con un cognome italiano guardando i genitori su Skype. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.